mago! È Natale! Natale non ancora, dai! C'è una cometa sul tetto dell'asilo. Ah sì? Che sfiga porterà! Ma come che sfiga? Beh, sai, le comete si sa, Babbo Natale! Sì, sì! Nel letto d'ospedale! Oh, ma... più di là che di qua! Ma cosa dici? Ma tanto Babbo Natale non esiste! Ma che disastro! Che pacco colossale! I regali chi li porterà? Infatti, ma se non esiste Babbo Natale, i regali... Natale è da dimenticare, farvi auguri, ma che senso ha? Ma ti appena detto che non ha senso fare gli auguri! Allora, gli auguri ce li facciamo il 15 dicembre alle 21 nella sede di Radio 24 a Milano. Sì. E c'è la recita di Natale di Chiedo Asilo. Per prenotare basta scrivere a chiedoasilo@radio24.it. Ma non solo noi due. Eh no, ci sono anche K, Drago e Calabro. Purtroppo.